È tempo di parlare, sì, di questa vita insieme. In fondo ti conosco, poi mi conosco bene. So quello che voglio e cosa mi mantiene. Invita te accanto e sì, ti voglio bene. Non vedo poi così comune il nostro sentimento. In fondo vedo anime là fuori in pieno smarrimento. Farsi trascinare dove porta il vento. Quando si fa sera poi la sento. La nostra casa è vuota se non sei ritornata. Chissà dove sarei se non ti fossi fidata. Quando ti ho perso poi ti ho ritrovato. Quando nei tuoi occhi ho letto che ti avrei amato. Non ci credo che ti ho. Non fermarti ora, dimmelo. Comincio a vedere le cose in modo diverso. Com'è che senza te non so com'è, mi sento perso. Non si tratta più di te, di me, questo è il nostro universo. Credimi che non può essere diverso. Tratta di una dimensione che mancava, intanto che la storia tra di noi maturava. A mettere in ordine eri sempre tu la più brava. E sempre in grado di capire cosa ci mancava. E intanto so che limito il mio spazio dove c'è il tuo. Ma per espanderlo sul nostro adesso siamo un duo. E di capire poi tanto non ce n'è bisogno. Lo scriviamo in due, questo è il nostro sogno. Non ci credo che ti ho. Non fermarti ora, dimmelo. Allora, quando torni... Ok, va bene, no, non c'è problema, mando avanti io. Ok, got ciao. To know, no, so che ti riprenderò, no, adesso non mi fermo.